Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori. 13, 17 minuti, 11 secondi. In questo istante inizia l'ultimo appuntamento di Nessun luogo è lontano per quest'anno. I saluti vi vengono anche da Riccardo Poli, che è in redazione, da Mauro De Angeli, che è alla parte tecnica. Le coordinate le conoscete: 349-238-6666 per gli sms, la mail nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook è Nessun luogo è lontano. Avete sentito dal GR di questo attentato ad Abuja in Nigeria alla sede ONU, molto ragionevolmente già alcune fonti di intelligence puntano il dito contro Al-Qaeda nel Maghreb islamico o Boko Haram. Personalissima opinione, credo che si possa più ragionevolmente puntare il dito su Boko Haram, che è questa setta islamica estremista attiva da parecchi anni nel nord della Nigeria, molto poco conosciuta ma molto attiva e molto molto pericolosa. Il nome è un mix di arabo e di hausa e significa educazione occidentale vietata, ed è una setta che dal 2002 ha impegnato ferocemente le forze di sicurezza nigeriane. Gli ultimi attentati addirittura nel giugno scorso, quando colpirono in varie città nigeriane anche postazioni di polizia. L'obiettivo della setta, che la cui fondazione risale al 2002, il leader Mohamed Yusuf poi fu ucciso dai nigeriani in circostanze non chiarite, l'obiettivo è instaurare la Sharia e quindi uno stato islamico almeno nel nord della Nigeria. Ma adesso andiamo in Libia. Ancora oggi la Libia richiama la nostra attenzione. Perché? Perché oggi è giornata di preghiera, regna per il momento una calma apparente a Tripoli, mentre la NATO sta tentando di piegare le ultime resistenze a Sirte, dove, secondo fonti dell'intelligence francese, si troverebbe il Rais. Diciamo, le opzioni al momento nel Toto Gheddafi sono due: si troverebbe a Sirte oppure a Saba a sud nel deserto, da cui fa sentire la sua voce. Libia lakum Trablus wa Trablus yin ليس للعملاء الذين يستجدون بالناتو هؤلاء عملاء ليسوا من طرابلس ليسوا من طرابلس. E il messaggio, come dire, i toni sono i soliti, consueti toni muscolari, si invita a combattere, però poi c'è un riferimento preciso a Italia e Francia, dice la Libia, dice Gheddafi, non è né della Francia né dell'Italia. Questa la situazione sul terreno, ma se avremo nuove durante la trasmissione ve ne daremo conto. Adesso io do intanto il mio buongiorno a Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno a lei. E do anche il mio buongiorno a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo probabilmente alle ultime battute, ma è ad obbligo usare il condizionale nel conflitto libico, perché insomma le dichiarazioni dei ribelli, ma anche quelle degli alisti e poi, come dire, la realtà sul terreno ci ha abituato in questi mesi a usare appunto il condizionale, a andare coi piedi di piombo. È vero che Abu Salim pare essere l'ultima roccaforte a Tripoli, secondo le ultime notizie i ribelli starebbero preparando l'ultimo attacco appunto a questa estrema nicchia di resistenza degli alisti, ma appunto vedremo meglio che cosa accadrà. E allora, insomma, dopo sei mesi di crisi libica, cerchiamo di fare anche un bilancio di quello che è accaduto, dell'impegno della NATO, dell'impegno anche militare italiano. Partirei proprio dal sottosegretario Crosetto, chiedendogli, siamo alle battute finali probabilmente, un bilancio di questa missione NATO e italiana, e innanzitutto se l'aspettava così lunga all'inizio? Beh, siamo alle battute finali, siamo a metà di un percorso, perché comunque anche se oggi pomeriggio prendessimo Gheddafi, il percorso per arrivare a una Libia normalizzata, cioè, sarà ancora lungo, perché il dopo Gheddafi non sarà un periodo facile. La durata è una durata che è quella che la NATO, con l'intervento dopo la decisione dell'ONU, aveva in qualche modo, diciamo, programmato, se vogliamo usare questo termine, cioè nel senso che l'impegno era un impegno che doveva basarsi sulla scarsità di mezzi che comunque Gheddafi aveva a disposizione e sul fatto che probabilmente dopo 40 anni il suo regime aveva stancato la maggioranza dei libici, quindi via via l'appoggio di tutte le tribù che l'avevano sostenuto poteva venire a mancare. Quello che ha consentito di entrare a Tripoli, quello che ha consentito quello successo in questi mesi, è il fatto che non si è trovato l'appoggio di alcune tribù importanti che negli anni scorsi l'avevano sempre sostenuto, quindi la NATO ha fatto una parte, ma la parte principale alla fine, col supporto della NATO, senza sarebbe stato impossibile, l'hanno fatta le tribù libiche e i libici. Fino a quando durerà l'impegno militare italiano? L'impegno come avevamo conosciuto in questi primi mesi va via via scemando, cioè adesso nei prossimi giorni, al di là degli aerei che voleranno, perché diciamo la Libia va tenuta sotto controllo e l'unico modo per osservarla è utilizzare gli aerei, l'impegno militare come abbiamo conosciuto cesserà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e si aprirà un percorso diverso. Io sono convinto che l'ONU in qualche modo entrerà con i caschi blu, che saranno composti principalmente dalle nazioni arabe o africane. Ci vorrà semmai una fase intermedia prima che l'ONU metta in piedi questa organizzazione, che penso gli richiederà almeno un mese e 45 giorni, per cui non è detto che nelle prossime riunioni internazionali Ban Ki-moon sia costretto a chiedere alla NATO un supporto di un mese e mezzo anche sul terreno per aiutare il consolidamento di questo percorso. Quindi, sottosegretario, esclude lei in questa fase intervento di militari occidentali sul terreno? Quando, forse l'ho detto in modo criptico, ma quando dico che l'ONU sarà probabilmente costretto nei prossimi giorni a chiedere alla NATO un supporto di un mese e mezzo in attesa di organizzarsi, il supporto lo intendo via terra, quindi probabilmente chiederà alla NATO anche qualche truppa via terra, cioè sulla terra, sul terreno libico, che consenta poi di mandare truppe africane o arabe, che richiederà secondo me all'ONU almeno un mese per organizzare. Quindi potremmo ipotizzare un periodo di transizione in cui i militari britannici, francesi, anche italiani potrebbero essere ufficialmente in territorio libico? Ma sa, poi una volta che l'ONU, se le mie previsioni sono giuste, certo, non ha detto che l'ONU ha chiesto alla NATO, poi le nazioni della NATO che diceranno di contribuire, io sono abbastanza sicuro che Inghilterra, UK e Francia siano disponibili, chi sarà disponibile poi invierà le sue, quindi poi non so se l'Italia sarà uno di quelli disponibili, la scelta non spetta a me, spetta al governo nella sua interezza. Gianandrea Gaiani, su questo punto vuoi commentare? Per adesso le dichiarazioni, a parte un'apertura britannica a un possibile invio di truppe di stabilizzazione, chiamiamole così, e gli altri paesi, mi sembra anche il ministro della difesa russa abbia escluso l'intervento di truppe di terra anche nella fase post bellica, però diciamoci la verità, noi in questi sei mesi di guerra abbiamo sentito dire, non solo in Italia ma da tutte le fonti governative occidentali, cose che venivano smentite poche ore dopo. L'Italia stessa cominciò questa guerra offrendo le basi e offrendo aerei per sorvolare lo spazio aereo libico, ma non per bombardare. Il Presidente del Consiglio disse: non bombardiamo, non bombarderemo mai, e poche settimane dopo i nostri aeroplani hanno bombardato e hanno continuato a farlo, non se ne parla mai. Uno di questi temi, l'Italia fa la guerra ma non si dice che abbiamo lanciato già più di 500 ordigni, c'è un silenzio molto pesante su un conflitto che l'Italia con sofferenza sicuramente ha deciso di affrontare insieme ai suoi alleati, forse anche in base alla valutazione strategica di non restare indietro rispetto agli sviluppi politici in Libia, della Libia post Gheddafi, rispetto a paesi che forse in questa guerra hanno responsabilità molto serie, io dico anche molto gravi, e mi riferisco a Gran Bretagna e Francia. C'è tanta confusione su questa guerra, c'è stata non solo in Italia ma in tutto l'Occidente, basta pensare che oggi qualcuno diceva in Francia, le fonti francesi dicevano che Gheddafi è a Sirte, sì. Qualche ora fa si sentiva dire che era nel sud di Tripoli, e le fonti del CNT dicono è fra Sirte e Seba, cioè è come dire che se noi cercassimo un latitante di dire che si trova tra Milano e Salerno, sì. Cioè, ovviamente insomma, c'è molta confusione, e credo che se c'è confusione sull'attualità, sui fatti di oggi, c'è stata anche sulla presenza di truppe straniere, ce ne sono, ecco, anche italiane in Libia. La NATO ha smentito, ma per forza lo può fare perché sono forze speciali che dipendono dai singoli paesi e non dal comando NATO. Ma se c'è confusione anche nell'informazione sull'attualità, figuriamoci sulle previsioni del futuro anche a breve termine. Allora, Gaiani, proviamo a cercare di tracciare un quadro il più preciso possibile. Facevi riferimento a più che indiscrezioni di stampa, abbiamo visto anche le foto in alcuni casi dei giornali, di forze speciali straniere in territorio libico. Tutti probabilmente gli ascoltatori ricorderanno, se hanno sfogliato i giornali qualche tempo fa, si vedevano questi, era un servizio di Al Jazeera se non mi sbaglio, insomma faceva vedere questo probabile ex ufficiale o attuale ufficiale delle SAS o delle forze speciali britanniche che operava con i ribelli, era nella front line, dava indicazioni, aiutava eccetera eccetera. Il ministro degli esteri inglese proprio oggi in un'intervista ha detto: non posso né confermare né smentire la presenza di forze speciali sul terreno perché metterebbe a rischio l'eventuale loro stessa presenza. E, fra l'altro girava un video su YouTube qualche tempo fa guardando il quale insomma si capiva che uomini del Qatar, armi in pugno, stavano riaprendo fondamentalmente l'ambasciata del Qatar. Insomma, non è un mistero che forze speciali straniere abbiano in qualche modo fatto mettere la quinta ai ribelli nel conflitto libico. Sottosegretario, su questo punto l'Italia ha utilizzato forze speciali in territorio libico, sì o no? No, io penso che la NATO abbia utilizzato dei sistemi soprattutto di intelligence e semmai di formazione nella prima fase, ma sono anche emersi sui giornali, quindi... Su questo punto e sugli altri della crisi libica torniamo subito dopo la borsa, poi di nuovo Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati, ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Eravamo in collegamento col sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, la linea è caduta, lo stiamo cercando di richiamare, il telefono sembra staccato. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Stavamo ragionando su quelle che sono più di indiscrezioni di stampa emerse in questi giorni sulla presenza di forze speciali straniere al fianco dei ribelli libici. Fra l'altro questa cosa spiegherebbe l'improvvisa accelerazione delle operazioni militari su Tripoli. È anche vero che sicuramente le tribù berbere che si sono unite da un mese circa a questa parte sulla stretta Tripoli hanno dato una mano, è sicuramente vero che i bombardamenti della NATO hanno fiaccato le resistenze del Reis, ma come dire, quello che è più di probabilmente un coordinamento logistico sul terreno fatto da questi agenti segreti, agenti speciali, ha dato una buona mano ai ribelli verso la loro avanzata. Gaiani, su questo punto io, come dire, la mia conoscenza sul terreno rimane limitata a marzo-aprile, che era la data della mia ultima trasferta libica, quando ho potuto tastare con mano la difficoltà della prima linea ribelle nell'avanzare e la totale inadeguatezza di questi ribelli rispetto alle forze lealiste. Ma guarda, cosa è cambiato? Che sono aumentate le forze sul terreno, le forze sia dei ribelli, sia soprattutto i consiglieri militari, le forze speciali alleate. Non si tratta solo di forze speciali, diciamo, di truppe in servizio attivo, ma si tratta anche di contractors, di ex militari dei reparti d'élite, parliamo in questo caso di britannici, che fanno parte di compagnie private di sicurezza e militari, che sono perfettamente legali in Gran Bretagna, in Italia no, che sono state assoldate per aiutare i ribelli con i fondi messi a disposizione dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, che sono gli sponsor finanziari dei ribelli, degli insorti libici. A queste forze si sono uniti poi i consiglieri militari veri e propri. L'Italia, la Francia e la Gran Bretagna hanno inviato, e questo è un dato ufficiale, una decina di ufficiali, di soldati specializzati a Bengasi nei mesi scorsi per costituire una sorta di stato maggiore, per dare un'organicità a un esercito ribelle che, lo sappiamo, è composto da 40 milizie diverse che obbediscono a leader politici e tribali in maniera molto autonoma, quindi anche indisfilacciata. E poi c'è la presenza di queste forze speciali francesi che hanno addirittura paracadutato uomini nelle zone berbere e hanno paracadutato successivamente 40 tonnellate di aiuti militari. Parliamo di navi che dovevano portare aiuti umanitari e che a Bengasi hanno sbarcato armi e munizioni, tra queste probabilmente anche quelle armi che l'Italia sequestrò nel 94, quel carico navale russo diretto ai croati, allora c'era la guerra nei Balcani, che doveva essere distrutto, poi è finito alla Maddalena e da lì è stato segnalato in trasferimento verso Tripoli. Poi su cui poi è stato messo il segreto di Stato, per cui non si è più saputo nulla da questo punto di vista. Il sottosegretario diceva: a me non risulta la presenza di militari italiani, compito della NATO, però insomma risulta è difficile, no? Io dico questo, penso che ovviamente se su queste operazioni c'è un segreto che si vuole mantenere, l'ha voluto fare la Gran Bretagna, l'ha voluto in qualche modo fare anche lì la Francia, e anche l'Italia ha i suoi motivi. Se il governo italiano non è in grado di raccontare ai contribuenti quante bombe abbiamo tirato sulle truppe di Gheddafi per motivi di opportunità politica, presumo che sia anche difficile parlare di questi aspetti, ma discrezioni che ho raccolto da più parti parlano di una presenza anche importante degli italiani, soprattutto sul piano dell'intelligence, cioè della capacità di raccogliere informazioni sugli obiettivi che poi gli aeroplani della NATO hanno colpito. Le forze speciali al fianco dei ribelli non sono soltanto uomini che servono per il combattimento, anzi sono quegli uomini che fanno da tramite tra la capacità tecnologica della NATO, delle forze alleate, pensiamo agli aerei teleguidati, ai velivoli da ricognizione, di acquisire informazioni sul terreno. Il Tripoli è completamente controllata 24 ore al giorno dai velivoli teleguidati americani e anche italiani che da qualche settimana operano sulla Libia. Queste informazioni che vengono raccolte per arrivare ai ribelli e quindi essere utili nelle decisioni tattiche da assumere quando si attacca un quartiere o una città, devono essere ricevute ed elaborate. Per fare questo ci vogliono non solo tecnologie avanzate ma anche uomini che le sappiano usare, quindi le forze speciali servono anche a questo, a fornire ai ribelli le informazioni giuste, e poi sono serviti a spianare la strada su Tripoli, soprattutto nell'impiego degli elicotteri d'attacco. Noi sappiamo che inglesi e francesi hanno su due portaelicotteri schierato degli elicotteri da stacco, che sono gli Apache britannici, i Tigre e i Gazelle francesi, elicotteri che progressivamente hanno demolito missile dopo missile le difese libiche, consentendo ai ribelli di avanzare su Tripoli. Questi elicotteri e queste portaerei non rientrano sotto il comando della NATO, ma si muovono su ordine, su iniziativa diretta dei paesi che li hanno inviati, cioè della Francia e della Gran Bretagna. La portaerei francese De Gaulle, protagonista di questi raid aerei, era sotto comando francese, non sotto comando NATO. Quindi quando la NATO prego. No, perché mi sembra un punto, come dire, che in qualche modo scricchiola, nel senso, se c'è un cappello della NATO, mi aspetto, no, che dal punto di vista non solo logistico, ma anche in qualche modo politico, di coordinamento, tutti quanti sono impegnati, tutti i soggetti impegnati nella missione rispondono alla NATO. Invece tu mi dici che, come dire, a certe operazioni, la risposta di certe operazioni va ai singoli paesi. Diciamo che tutti ci ricordiamo quando gli alleati iniziarono le operazioni aeree, i francesi cominciarono qualche ora prima degli altri, mentre ancora a Parigi si discuteva di come mettere a punto l'intervento militare. La Francia non voleva un comando NATO, l'ha dovuto accettare, l'ha accettato lasciando le sue forze distaccate, esterne al comando NATO. Ovviamente c'è un coordinamento per evitare che gli aerei francesi della Portaerei De Gaulle, che oggi è stata ritirata da qualche settimana dalle operazioni, e vadano a operare in un'area dove ci sono altri aerei alleati. Ma in questa guerra ci sono interessi e nazionali dei singoli paesi che muovono pedine militari che rispondono ai singoli paesi, e poi c'è un cappello NATO che ovviamente, del quale fa parte l'Italia e la gran parte dei paesi, però Gran Bretagna e Francia, che da soli rappresentano il 50% dello sforzo aereo e navale messo in campo, loro hanno assetti militari, le forze speciali, gli elicotteri, che rispondono agli ordini nazionali. E non ci dimentichiamo che la Francia ha accettato che l'Italia avesse il comando della flotta NATO che opera di fronte alla Libia, ma chiamandone fuori le sue forze che si muovono autonomamente. Quindi quando la NATO dice noi non abbiamo inviato armi ai ribelli, dice la verità, perché l'hanno fatto alcuni suoi membri, Francia e Gran Bretagna e anche Italia molto probabilmente, e l'hanno fatto autonomamente, senza passare attraverso il controllo della NATO. Grazie, allora Gianandrea, stai con noi perché noi andiamo subito a Tripoli. Andiamo a Tripoli, dove c'è Roberto Bongiorni. Roberto, buongiorno a te. Sì, buongiorno a tutti da Tripoli. Ecco, Roberto, oggi Liberation faceva un interessantissimo pezzo intitolato Abdelhakim Bellahi, il ritorno di Al-Qaeda, rimettendo in luce una cosa di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, parlando di Abu Salim, ad esempio, cioè della presenza di estremisti islamici, di combattenti tra le fila dei ribelli. Però Liberation si spinge oltre e dice che addirittura Abdelhakim Bellahi, che è un ex mujahideen nel mirino della CIA, Russia, ha militato in Afghanistan, poi è stato in prigione a Bangkok, poi è uscito, insomma ha un passato piuttosto tormentato, e sarebbe di fatto il governatore militare a Tripoli. Ti arrivano notizie di questo tenore? Che cosa puoi dirci da lì? Notizie no, però io userei cautela. Quando mi ero trovato i primi mesi della rivolta, i primi giorni in Cirenaica, dove veniva identificato Derna, la città costiera della Cirenaica, a 200 km da Bengasi, sì, centro islamista, dove c'erano rifugiati di Guantanamo, dove Gheddafi, ma lo stesso i nostri servizi segreti, avevano detto che c'erano rivolte islamiste, leader di Al-Qaeda, e vai a intervistare di persone, non vedi né persone uccise da Al-Qaeda, né personale di Al-Qaeda in loco o addestratori militari. Il motivo di Al-Qaeda è veramente un argomento molto delicato. Sì. Ci sono sì membri della Al-Qaeda che hanno partecipato anche in missioni in Iraq, per esempio Derna ne mandò molti in Iraq, sì, e poi ne ha mandati adesso molti in a Tripoli a combattere. Però è un argomento molto delicato. I ribelli sono una compagine molto eterogenea, che non rispondono a un capo unico e assoluto, sono più legati ai clan tribali di appartenenza, piuttosto che a un leader che li ispiri a combattere un jihad, una, sì, guerra santa. Quindi ci sono, io stesso incontrai questo Abdelhakim, non so se è stata la stessa persona, a Derna, si diceva persona detenuta a Guantanamo, in effetti era stato in carcere in Afghanistan un mese e mai a Guantanamo. Girano molte voci e speculazioni su questo argomento. Certo, perché è uno dei grandi spettri, insomma, che aleggia anche su un possibile post Gheddafi. Roberto, un'ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo lavoro. È imminente l'attacco all'ultima roccaforte ad Abu Salim da parte dei ribelli? Allora, noi abbiamo partecipato ieri all'attacco ad Abu Salim, anzi ce la siamo vista anche brutta in alcuni momenti. Dunque, ieri è stata conquistata una buona parte di Abu Salim, siamo anche entrati. Rimane il carcere però, che esatto. Il carcere, sembra che sia stato liberato parte di zone, comunque sono già stati liberati, sono già stati fuggiti, ma il problema non è tanto la conquista del quartiere, quanto alla presenza dei cecchini. Anche da Abu Salim ci sono un sacco di tunnel e stanze. Ieri, per raccontarvi così un aneddoto, abbiamo visto un attacco a un certo punto con i ribelli e sparava un cecchino, sparavano a un certo punto, per eliminarlo hanno cominciato a fare fuoco con i razzi anticarro, con gli RPG, con delle mitragliatrici, sì, e artiglierie di grosso calibro, hanno sgretolato la parete della casa e poi non hanno trovato il corpo del cecchino, che probabilmente era fuggito. Quindi se c'è ancora la capacità di questi uomini di infilarsi, ritornare ed emergere, è ovvio che Abu Salim potrebbe anche essere preso, potrebbe ancora essere infestata da queste persone. Sono operazioni che richiedono del tempo. Certo, fra l'altro l'unica cosa, l'unico rilievo che posso mettere in evidenza è che comunque ad Abu Salim almeno al fuoco i gheddafiani rispondevano con armi più leggere rispetto a quelle dei ribelli. Se si abbiano finito le munizioni, questo non lo so, però questo era un fatto. E questo è un primo dato. Grazie. Allora, Roberto, buongiorno, buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti. Eh sì, perché le ultime resistenze lealiste sono molto probabilmente uomini preparati, sono cecchini, quindi sanno usare fucili di precisione e tengono in scacco parecchie centinaia, parecchie decine di ribelli alla volta che, come avete sentito dall'ultima vicenda raccontata da Buongiorni, insomma, non si esimono dall'usare fuoco pesante, a volte anche in maniera, insomma, come dire, non estremamente professionale, appunto, per un militare, ma lo sapete, ve l'abbiamo detto un sacco di volte, l'armata ribelle libica è composta da gente che in molte, nella maggior parte dei casi, appunto, non ha mai imbracciato un'arma prima del febbraio dell'anno scorso, insomma, con tutte le conseguenze del caso. Allora, il traffico incombe, sì, il traffico, poi di nuovo nessun luogo lontano. E purtroppo, sottosegretario Crosetto, insomma, il cellulare è staccato, io volevo capire meglio, insomma, in parte ha già risposto, ha detto, insomma, non mi risulta sulla presenza di forze speciali italiane sul terreno, mentre appunto è ufficiale la presenza di una decina, una ventina di invece di ufficiali a Bengasi che facevano questo coordinamento logistico già da alcuni mesi. Mi premeva anche chiedere al sottosegretario quale sarà il ruolo dei nostri militari sull'addestramento delle future forze libiche politiche e di questo ha parlato Frattini proprio ieri. Già abbiamo mandato dei team di addestratori militari a Bengasi per l'addestramento tecnico di alcune unità delle forze armate, ma pensiamo di estenderlo anche alla polizia, con particolare riferimento alla polizia di frontiera e alla guardia costiera libica. Saranno alcune unità, saranno 15-20 cioè, militari che addestrano altri militari. E quindi i militari italiani, insomma, daranno corpo, daranno forma in parte, insomma, a quello che sarà il nuovo esercito libico. Gian Andrea Gaiani, su questo punto, perché mi sembra fondamentale. Allora, in Libia circola... È fondamentale, ma si cerca di rinnovare la missione che era già in corso con il regime di Gheddafi. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo un trattato d'amicizia con la Libia, firmato con Gheddafi, sì, che già prevedeva e già aveva visto la presenza di militari della Guardia di Finanza che affiancavano la Guardia Costiera Libica. Certo, per frenare, frenare i migranti, certo. Questa. Però volevo toccare un altro punto con te, se mi permetti, che è questo. In Libia circola una massa gigantesca, spropositata di armi. Sono tutti armati. Ribelli che un mese prima facevano ricercatore all'Università di Economia e Commercio, l'ingegnere, lo studente, chiunque adesso imbraccia un'arma. Quando domani bisognerà smilitarizzare la Libia, cioè quando bisognerà dire ai ribelli: benissimo, voi avete fatto il vostro compito, adesso mi rendete il Kalashnikov. Come funzionerà questo processo? Funzionerà come è accaduto in Iraq, come si è cercato di fare in Iraq, dove si pagavano fior di culi dollari, ma lì lo facevano le forze d'occupazione e poi di stabilizzazione americane e alleate a chiunque consegnasse armi. E anche il stesso Gheddafi ha distribuito armi alla popolazione nelle zone a lui fedeli per creare capacità di autodifesa. Poi la stessa Libia è strutturata su un modello di difesa, la Libia del regime di Gheddafi, che era mutuato da quello jugoslavo, e quindi di un popolo che poteva trasformarsi in esercito di popolo. Quindi c'erano i depositi di armi in ogni città per armare tutta la popolazione in caso di invasione. Chiaro che questo creerà grosse difficoltà, e noi sappiamo anche, perché è un dato ufficiale, che i servizi segreti algerini hanno segnalato più volte l'afflusso di armi trafugate dai depositi di Gheddafi nelle zone in mano ai ribelli, arrivate ad Al-Qaeda nel Maghreb, rinvenute nel sud dell'Algeria, in alcuni paesi del Sahel, posti che tu conosci molto bene. E anche i servizi segreti israeliani hanno segnalato l'afflusso attraverso il Sinai a Gaza di armi sofisticate, parliamo di missili antiaerei, missili anticarro, provenienti dagli arsenali libici. Chiaro, quando c'è una guerra civile tutti i traffici illeciti fioriscono o si sviluppano maggiormente e tutto diventa possibile. Questo non è una novità, ma oggi riportare la sicurezza in questa zona, come prima anche diceva giustamente il sottosegretario Crosetto, richiederà parecchio tempo riportare la sicurezza e il controllo sulle armi presenti nel paese. Ecco, fra l'altro, in questo senso probabilmente una missione di caschi blu, come si diceva, africani o arabi, che tra i suoi compiti abbia la dismissione di questi giganteschi arsenali, insomma, come è già stato fatto, come fa spesso l'ONU, lo fa in Congo ad esempio con alcuni gruppi ribelli, per cui si pone come forza esterna e indipendente e si dice: ok, consegnate a me le armi. Insomma, questo potrebbe essere uno degli scenari prevedibili. Grazie Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore, per il tuo contributo. A presto, arrivederci. Chiudiamo allora il capitolo libico, ne apriamo un altro e andiamo in Sinai. Andiamo nel Sinai perché la notizia di quest'oggi è che Israele sarebbe incline, leggo testualmente una dichiarazione di Ehud Barak, sarebbe incline a autorizzare l'ingresso nella regione di migliaia di soldati egiziani per mettere fine alle attività di gruppi terroristici islamici. Allora, cerchiamo di capire meglio. Voi ricorderete l'attentato, l'attacco ad Eilat, la conseguente rappresaglia israeliana su Gaza, un'escalation che poi si è fermato, c'è stato un cessato il fuoco, pare confermato anche quest'oggi da Hamas e gli altri gruppi da Gaza. Cerchiamo di capire di più grazie a Paola Caridi, giornalista, autrice di Arabi Invisibili e fondatrice di Lettera 22. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, notizia non priva di forti conseguenze, direi, perché insomma, se arrivassero centinaia o migliaia di soldati in Sinai, che egiziani, che scenari si aprirebbero in quella zona? Ma anzitutto, secondo me, bisogna fare un po' di chiarezza nel vocabolario che spesso usiamo quando parliamo di queste cose. Terrorismo islamico lo trovo piuttosto strano come modo di parlare del terrorismo. Il terrorismo non ha religione e quindi dare dell'islamico al terrorismo mi sembra un'offesa alla religione musulmana, prima cosa. No, se ho detto come se parlassimo del terrorismo cristiano. Sì. E quindi secondo me su questo veramente dovremmo stare attenti al vocabolario che usiamo. E riguardo al Sinai, questa cosa che dice Barak è una cosa molto interessante perché vorrebbe dire spostare i parametri di Camp David, dell'accordo di Camp David del 1979, e questo è veramente un cambiamento importante. Il Sinai è stato conteso in particolare nella guerra dei sei giorni. Che significato ha tra Israele da una parte, Egitto, Siria e Giordania dall'altra? Che significato ha dal punto di vista strettamente geopolitico per Israele questa zona? Ha molti significati per entrambi i paesi, anche dei significati mitici, se si vuole, culturali, come dire, della memoria. Dal punto di vista geopolitico è certo un cuscinetto che nella storia del confronto fra i due paesi è stato talmente importante da essere poi il cuore degli accordi di Camp David. Ma non è, come dire, il problema non sorge adesso che c'è l'arrestata la rivoluzione al Cairo, la rivoluzione del 25 gennaio. Il problema della sicurezza nel Sinai è un problema che c'è stato soprattutto durante il regime di Mubarak. Nel senso che noi ci ricordiamo, ma io personalmente, perché dovevo andare a dormire in quell'albergo di Taba all'hotel Hilton due giorni dopo l'attentato del 2004, insomma, ci sono stati anche con vittime italiane, se vi ricordate, degli attentati nel Sinai ai siti turistici come Sharm, come Dahab, come la stessa Taba, che non sono certo avvenuti dopo la rivoluzione del 25 gennaio. Questo per dire che dobbiamo avere memoria storica quando parliamo della sicurezza del Sinai. È un problema, è stato un problema per Mubarak e per il suo capo dei servizi di sicurezza Omar Suleiman, continua ad esserlo in una fase che è ovviamente una fase confusa di transizione come quella verso la democrazia egiziana, verso la democrazia in un paese che è stato sotto il tallone della dittatura per decenni. Sì. Cosa succede? L'idea di mandare migliaia di truppe nel Sinai era un'idea che già era stata discussa fra Egitto ed Israele in questi ultimi anni proprio per il problema della sicurezza, cioè per questa situazione in cui nel Sinai, che gli italiani lo sanno, è un territorio piuttosto difficile, c'è contrabbando, c'è passaggio di armi, anche se io non sono convinta che passino tutte queste armi, perché insomma dalla Libia a Gaza c'è da fare una lunga strada con dei missili anticarro, insomma mi sembra un po' particolare. Ma sì, diciamo che è più facile che dalla Libia finisca in Algeria, come sottolineavamo prima con Gianandrea Gaiani. Sì, appunto, Gaza è un po' più lontano. La vedo difficile, deve passare il deserto libico, anche quello deve passare l'Egitto, insomma c'è da fare un bel po' di strada e non credo che non ci siano dei blocchi. Per chi conosce il Sinai, per esempio, passare dalla Libia al Sinai vuol dire passare attraverso il canale di Suez e una serie di checkpoint che sono piuttosto non solo evidenti ma presenti. Sì. Però, insomma, come dire, il problema del rapporto per esempio con le popolazioni beduine, il problema del rapporto con le popolazioni del Sinai nel governatorato del Sinai è stato uno dei nodi più importanti della gestione della sicurezza di Omar Suleiman, che è stato l'uomo forte d'Egitto all'ombra di Mubarak, e ovviamente il problema c'è anche adesso, non è stato ancora risolto. Ecco, un'ultima domanda, diciamo, di previsione. Questi soldati poi, perché è una, come dire, un messaggio di intenzione finora, questi soldati saranno poi schierati secondo te? Oppure, come dire, è un pur parlé? Sì, perché no? Barak è stato anche su questo chiaro, ha detto sì agli elicotteri, sì a blindati, no a carri armati. Grazie. E quindi truppe di terra, ma in misura limitata. Grazie. Allora, Paola Caridi, giornalista, autrice di Arabe Invisibile e fondatrice di Lettera 22. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi. E torniamo in Nigeria grazie alla BBC perché ci sono nuove, ascoltiamo. 10 dead, the number we have at the moment, but of course, ecco, come sentite, 10 morti è il numero che fonti di BBC hanno, si vedono ambulanze sul posto, tutto il primo piano del seminterrato di questo palazzo, sede dell'ONU ad Abuja, è stato colpito da un'autobomba. Molto ragionevolmente, vi dicevo, l'attacco potrebbe essere stato condotto da questa setta, da questa formazione estremista degli Boko Haram. Abbiamo il tempo per un WhatsApp velocissimo, sì. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E andiamo in Abkhazia. Elezioni presidenziali in corso oggi nella regione georgiana secessionista dell'Abkhazia in seguito alla morte lo scorso maggio del presidente Sergei Bakapash. Tra i candidati in lizza tutti filorussi, il vicepresidente Ankab, il premier Shamba, entrambi accreditati al 20% ciascuno, e il leader del partito di opposizione Forum dell'Unità del Popolo dell'Abkhazia, che è dato al 10%. E poi in Cina, dove fa discutere la candidatura al premio Nobel per l'economia del cinese Justin Yifun Lin, gruppi di dissidenti cinesi stanno vivacemente protestando per questa candidatura, accusano Yifun Lin di essere un servitore del Partito Comunista che ignora i diritti umani e le esigenze della gente comune. E poi ancora Gaza, ne stavamo parlando prima, dove pare che appunto le fazioni palestinesi abbiano accettato il cessate il fuoco. L'accettazione del cessate il fuoco è stata confermata da Hamas, il movimento che controlla la striscia di Gaza, stando al quale a questo proposito vi sono state continue comunicazioni tra Hamas, i nostri fratelli egiziani e le Nazioni Unite. E a questo punto i titoli di coda. E sono gli ultimi per quest'anno, quindi devo ringraziare l'infaticabile Riccardo Poli in redazione, la perizia, la parte tecnica di Mauro De Angeli. Io cosa faccio? Spengo il microfono, riprendo lo zaino, un saluto da Giampaolo Musumeci, ma vi ricordo che nessun luogo è lontano.